MP3 e il cellulare con un caricabatteria a energia solare, tanti libri, tanta acqua, non si sa perché, le foto, le registrazioni vocali delle persone col tempo, più scatolette, ciotole per la mia iedina. Dovrebbe fare come faraoni che seppellivano i propri animali, seppellire vivo il cane con il cibo, una cosa orribile. Però è interessante che se oggi si lasciano delle tracce digitali nella capsula del tempo, bisogna mettere il lettore e anche un alimentatore a energia solare, perché se fra qualche anno, ammesso che ancora brilli il sole, viene trovato, sono un'altra maniera per poterle leggere. Massimo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io volevo portare la mia testimonianza. Anni fa, ristrutturando casa, che era una casa dei miei tresavoli di mia mamma. Più o meno l'anno di costruzione, può dircelo, se lo ricorda? Ce l'ha presente? Sì, inizi del 600. Inizia del 600, beh, una casa bella vecchia, certo. Abbastanza. Niente, togliendo un sasso da un muro, ristrutturando il tetto, è uscito un pentolino in terracotta pieno di monete d'oro, marenghi, fiorini, e c'erano monete in argento. All'interno c'era una pergamena dove erano arrotolate queste monete e c'era scritto da questo trisavolo di mia mamma che lasciava queste monete, questi averi, ai figli dei figli del seno materno. Io ho fatto la stessa cosa quando ho ristrutturato casa, mettendo all'interno di un barattolo di vetro le stesse all'interno monete del muro. No, non le stesse monete di quest'epoca. Beh, ci mette gli euro che fra 200 anni non varranno niente. Le monete d'oro del 600 almeno le ha lasciato qualcosa. Sicuramente. Cioè, diciamo, nella sua arcaica maniera di trasmettere una ricchezza, le ha lasciato un bene concreto. La moneta d'oro tutt'oggi ha un valore, oltre che numismatico, anche concreto. La moneta che è segnata dall'epoca in cui viene battuta, appunto, cui viene emessa, ha un valore molto, molto flebile. Trovare delle monetine da anche 2 euro fra 200 anni non credo che avrà grande valore. Comunque è molto emozionante quello che lei ci ha raccontato. Spesso nelle case, soprattutto le case vecchie, che muri erano fatti spesso con materiali di risulta, non c'era una costruzione lineare come viene fatta oggi, si faceva la calcina e ci sbuttava quello che capitava. È possibile trovare delle sorprese. Stefania, buongiorno. Buongiorno, anche io sì, ho voluto lasciare una sorpresa ai posteri. Purtroppo nella ristrutturazione della nostra casa, che è all'interno di una piccola contrada a 500 metri sopra Verona, non ho trovato invece nulla di bello, non mi hanno lasciato nulla, ma allora ho pensato comunque che sarebbe stato carino lasciare una traccia, per cui quando abbiamo aperto una porta in questi muri di pietra caratteristici proprio della Lessinia, molto spessi, sono 90 centimetri di spessore, all'interno, come dicevi tu, ci sono sempre degli spazi, dei vuoti, diciamo, certo. E all'interno di questo spazio ho infilato una scatola che ho comunque rivestito in plastica per evitare... Ecco, ci spieghi come ha costruito la capsula del tempo, questo è il punto. Praticamente ho preso anch'io, avevo un libro, come avevi tu, cavo praticamente, sì. Che era un vecchio regalo di, non so, forse dentro c'era una bottiglia di liquore, non sì, ricordo. Erano dei contenitori di bottiglie, molto anni 70-80, mi sembra. Sì, una cosa... sì. Esatto, era proprio, girava in casa da molto tempo. E niente, all'interno ci ho messo dentro anch'io delle monete, che allora erano lire, perché parlo di 13 anni fa, e sia di carta che di moneta, proprio soldini, insomma. E poi ho fatto un documento dove ho scritto un po' la storia che i vecchi del paese mi avevano riportato, inerente proprio a questa struttura. E ho messo anche i nostri nomi, chi siamo, come mai siamo venuti a stare qui, un po' di indicazioni. Immagini non ne ha messe, foto non ne ha messe? No, non ne ho messe, a dire la verità. Adesso, sentendo le altre capsule, della verità, mi sarebbe piaciuto. Gli ben voglia di prendere il martello pneumatico, riaprire il muro e rimetterci qualcosa. Esatto. Ma può metterne un'altra? Sì, è vero. Comunque poi questa scatola l'ho chiusa e l'ho avvolta in due o tre teli di plastica, proprio chiudendola bene per evitare che l'umidità poi rovini la scrittura. Sì, io non sono un esperto, ma io penso che le tecniche antiche di conservazione siano senz'altro superiori, perché non è provato quanto possa durare nei secoli la plastica, perché è un elemento recente, mentre la pergamena, la ceralacca, la pece, quello che usavano per sigillare comunque le resine, hanno trovato otri di vino con dentro ancora del materiale che aveva una parvenza di esistenza in navi romane seppellite nell'acqua, quindi secondo me è preferibile trovare tecniche antiche di conservazione piuttosto che metterci plastica e silicone, che non sappiamo cosa succede. Sì, no, hai ragione, è molto triste pensare che poi qualcuno trovi una roba tutta deteriorata o comunque di plastica, che comunque la plastica la ritengo proprio brutta. Dire la verità, quando io ho pensato questa cosa ero un po' ritenuta una pazza qui incontrata, perché vabbè, tanto per guardi, nessuno sopravviverà per giudicare la sua follia quando sarà ritrovata, quindi stia tranquilla. Lorenzo, eccomi, buongiorno. Capsula ritrovata. Capsula ritrovata è un racconto che mi è stato fatto al Museo Civico di Zoologia di Roma, dove ecco, scandisca bene, dove è stata trovata? Un attimo, tolgo l'auricolare. Ecco, sì, pronto? Ecco, ce la sentiamo meglio. Adesso. Allora, dicevo, ecco, faccia capire bene dove è stata trovata, scandendo bene le vocali. Allora, la capsula in questione è stata trovata all'interno di una foca impagliata al Museo Civico di Zoologia di Roma. E chi l'aveva infilata dentro la foca? L'aveva infilata il tassidermista dei tempi... Cioè l'imbalsamatore. L'imbalsamatore, esatto, che lavorava al Museo Civico di Zoologia di Roma è all'interno del Giardino Zoologico di Roma, che è un giardino zoologico storico. Ma lei l'ha vista mai questa capsula? Io non ho visto, purtroppo mi è stata raccontata dal tassidermista. Che ha aperto la foca e dentro c'era questa capsula. Ha aperto la foca, ha trovato, diciamo, distruggendo questo animale imbalsamato, perché era deteriorato, apparteneva ai tempi della guerra. L'imbalsamatore di allora, diciamo, ha voluto raccontare la situazione di difficoltà e di stenti del periodo della guerra, che ha causato, diciamo, la morte della maggior parte degli animali del giardino zoologico, e ha voluto raccontare le sue impressioni relative alla situazione sociale, alla situazione di guerra. Ma questo documento le risulta che sia esposto? Che... Questo documento no, non è esposto al museo. Anche io ne domandai di averne visione, ma a quanto pare il direttore di allora, piuttosto che una gestione un po' sommaria di quello, la perse. Insomma, o è rimasta in mano a qualcuno che se l'è tenuta privatamente. Vabbè, se qualcuno avesse notizie della capsula segreta che era stata introdotta dentro una foca in tempo di guerra per lasciare una traccia di quel momento ai posteri, ce lo faccia sapere, ci farà molto piacere saperne di più. 800240024, continueremo sulla capsula del tempo dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Imagina que tienes la posibilidad de viajar a algún momento del pasado de tu propia vida. Immagina di avere la possibilità di viaggiare nel tempo, in un qualsiasi momento del passato della tua vita. È la richiesta che viene rivolta sul sito Capsula del Tempo a chiunque voglia lasciare un ricordo di sé alle generazioni future. Ricordiamo che stiamo parlando di Capsula del Tempo, questo, come vi abbiamo già fatto sentire, è un sito che dà possibilità comunque di collocare oggetti in capsule del tempo e spiega come poter lasciare comunque qualcosa di sé. Stanno telefonando moltissime persone, vorrei definire un pochino meglio il tema, perché molti parlano di oggetti ritrovati, di oggetti nascosti. Quello mi piacerebbe capire e sapere da voi. E se non l'avete già fatto, se l'avete fatto è meglio, raccontateci come, in che maniera e con quale metodologia, quale tecnica. Ma se non l'avete fatto, cosa mettereste nella vostra personale scatola del tempo? Io vi ho detto le mie personali intime conservazioni liturgiche, raccontatemi le vostre. Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve, io volevo raccontare un fatto curioso che è accaduto tanti anni fa, quando ero proprio ragazzino, oggi ho 46 anni. Decidemmo di comprare una casa in montagna, in Valsesia, sopra Borgo Sesia per la precisione, ed era la casa di un vecchio cugino di mia madre che poi, dopo la guerra, per motivi politici era fuggito in Messico. Quindi abbiamo comprato questa casa e nel ristrutturarla, dietro il camino c'era un armadio che era stato murato, e quindi avevamo deciso con mio papà di riportarlo alla sua funzione originale. Quando l'abbiamo aperto, raccontavo prima alla sua collega che mi ha risposto, abbiamo trovato dentro circa 3-4 cipolle d'argento, tutte funzionanti. Degli orologi?